15, tramite un tassino a tre posizioni. E a me, già che c'ero, ho aperto eBay, ho messo il generico radio CB, c'è roba dell'anno dell'attacco, Pacific SSB, di che anno è? Vediamo, sopra è blu, esce, vedi? Pacific SSB 120 FR, sempre veicolare però, Sì, ne ha uno a 110 volt veicolare col suo alimentatore. Bello, questo azzurro del coperchio mi ricorda il Tokai. Non è carino, cioè non è male, però io roba vintage non ne voglio. Poi non si sa mai, lui ti dice che funziona, il venditore, come è successo su un noto forum di CB radioamatori. Sì, garantito, perfetto, guarda, te lo sto vendendo io, funzionante, ordino una cosa e non funziona la mia trasmissione. Ma che strano, qua funzionava, bla bla bla, sì, alla fine è sempre la restituzione poi non accettata, come sempre, e allora attaccatevi lì, no, non a te Luca, agli altri dico. L'hai provato questo? No, negativo, ho messo una ricerca generica, sto vedendo altra roba. E cosa dovrei mettere? Perché mettere il nome giusto? Sì, scrivi così, Cerriti Force One, vedrai che ti appare subito, anche perché c'è solo quello. C'è la tastiera CRI, ho scritto CRY Force One, ma vaffanapoli. E poi, beh, se non scrivi giusto, non te ne dà, non te li dà. Basta che scrivi anche magari qualcosa di non te li dà. Ma io l'ho messo giusto e non me lo dà. Vedo scarpe tutte dipinte rosse, lilla, verdi. Tutto scarpe mie, ma il baracchino non compare. Ah, forse l'ho trovato. Beh, se ce n'è uno, quello è. Allora, sì, vedo la scatola. Cazzo, il prezzo. Ah, Luca, il discorso solito facciamo. Aspetta che ti mando il link, aspetta. Strano, non l'hai trovato? Sì, te l'ho detto, trovato, perché se l'unico è quello lì. Però il prezzo, facciamo il discorso solito, come fanno Sassari, 50 euro ti posso dare. E allora, no, io l'ho messo quel prezzo lì, capito? Tanto a mettere un prezzo di partenza basso, poi vai solo a rimetterci, Marco, perché tu metti magari partenza a 50 euro, capito? E poi magari rimani fottuto perché lo vendi a 150, ma va? Ma com'è, ad asta o prezzo fisso, vediamo. Ah, quello è il prezzo di partenza, zero offerte. Caspita, se quella è la base, la partenza un po'. Vabbè, comunque, se uno è amatore lo prende, cioè, se vuole quell'oggetto lo prende indipendentemente dal prezzo. Tanto non lo trova e non lo trova più. E poi carino molto il display, purché sia giusto lo smitter, è molto carino perché li puoi cambiare sempre la forma, anche il colore, vedo, certi sfondi hanno un colore giallo, certi hanno un colore azzurro. Ah, è bellissimo, appunto, perché cambi, ti dà, c'è il modulometro, tutto in contemporanea, come hai ben visto, è un bellissimo apparecchio, caspita, per il display è bellissimo, guarda, ma poi anche la funzione funziona molto bene. Quindi passo, domani ti porto i soldi, prezzo pieno, vengo, così subito, Gianni me lo frega al volo. E non lo vedo, lo voto perché mi piace, se non fosse perché costa troppo, me la butto su io, per il momento non posso, va. No, ripeto, poi se non lo do su eBay, non mi interessa, però il prezzo di partenza io ho messo quello, Marco. Perché se metti 100 euro e a fine asta arriva a 150-170, cioè ci ho rimesso e basta, allora io parto già con quello che voglio, ma lo vendo, pazienza, ma di certo non parto all'asta con 50 euro come fanno molti, e come molte aste che mi sono aggiudicato, è roba funzionante poi tra l'altro, no? Lo metti a un prezzo di 50 euro e poi rimani fottuto perché magari l'asta si chiude a 100 euro, tu sperando di venderla a 200-250. domanda. L'ho messo già al prezzo che voglio realizzare io, poi se sale ancora meglio, ma magari all'ultimo minuto entra uno e fa 251, meglio così. Eia. No, vabbè, è bello, però io già all'epoca, come ho visto che era solo FM, ho detto no. Non è per me. Io ti ho detto, se mai dovessi spendere, è bello, mi piace il 3009, quello con la scheda del 6009, con tutte quelle funzioni digitali nascoste però utilizzabili, ma non ha, per me non ha più senso, quindi non credo che non comprerò più niente, e sarebbe ora anche. Oh, poi in 27 era così, Gianni magari se lo ricorda, se ti facevi interessato a un oggetto e ne parlavi in radio, c'era il solito amicissimo della 27 che ti bruciava e magari ti fregava l'affare, capito? Già successo. Gianni. Gianni sarà la non è interessato, ne parlo di sempre, c'è un amicissimo. Ti brucia, dice che lo compra prima di quello che sta andando all'appuntamento, da lì 20 euro in più, ancora con le cacio per il 600. Guarda, tutto 150 euro. Abbiamo parlato in due. Ho detto già. Gianni. E ho detto che è successo anche a me, che praticamente su me stavo giocando a un'asta e c'era anche qualche diabolico che si stava praticamente tentando questo Lafayette 120 cali, e praticamente c'era anche un lineare da 300 watt e l'ho preso tutto per 150 euro, ma non sapevo che c'era lui che stava a giocare, ma te l'ho fatto la bagassa tu, l'ho fregato e ho detto a casa, vieni, io non lo sapevo che ti regalo l'amplificatore, cazzo mi serviva l'amplificatore per il furgone e che te l'ho regalato, l'ho regalato davvero, ti giuro. Sì, no, ma anche in caso di vendita, mi pare era successo a te se non sbaglio, dovevi vendere, non c'è sto segnale che ogni tanto arriva, dovevi vendere una cosa, forse il microfono, no? Ne avete parlato in aria, poi arriva un altro e dice, no, quello non serve, comprati il mio, bruciata la vendita tua, o sei di tu, non mi ricordo, piccole fregature tra amiconi della frequenza. No, ma quello lì era in frequenza che è successo, sì a me, ma in frequenza però, era, chi doveva comprare cosa era Gianni, come si chiamava, Dinamite. Ma infatti almeno quando c'era nel CB che era attiva la 27, se dovevi fare una vendita o un acquisto bisognava parlarne al di fuori della radio già, capito? Se no qualcuno interveniva, si metteva in mezzo, magari ti toglieva di mano l'apparato per 20 euro in più o ti bruciava la tua vendita, capito? Quindi vabbè, non mi ha fatto né più ricco né più povero farmi quel lavoro lì. Non so, gli avevo detto quello di Porto Torsi di non comprarlo. Gli aveva telefonato quello lì e gli aveva detto così. Oh, poi ci sono cose veramente incredibili ai confini della realtà. Tipo quella volta che Antonello aveva comprato un apparato X. No? Poi è arrivato quello che si è sciabidato di... come si chiamava? È andato a lamentarsi con chi l'ha venduto, gli ha dato più soldi, quello si è fatto ridare l'apparato ad Antonello, che io non gli avrei dato, ho detto, l'apparato è pagato, basta, fine. Capito? Invece Antonello, che è troppo buono, gliel'ha ridato e quello l'ha rivenduto a un prezzo più alto a quello che si è comportato male in 27, quello sciabidato di... boh, non mi ricordo, coso bianco, non mi ricordo, ma non l'ho rimosso il nome. E sta in combo. Può essere Franco Bianco, capito? C'è, però se non Antonello avrebbe detto, no, l'apparato, ti ho dato i soldi, l'apparato è se mio, però tu non sai mai cosa può inventarsi chi te l'ha dato, può inventarsi che gli è stato rubato, che ce l'hai tu a casa, capito? Non si sa mai con che gente si ha a che fare, comunque è scorretto sia il venditore e sia quello che ha insistito per farlo riavere indietro e per fregare, per vendere, comprarlo lui, capito? Quelle sono carogne, sono persone che non valgono nulla. poi tu, per cosa tutto questi intrallazzi? È sparito quello lì, l'acquirente è sparito, con una, in cosa ha fatto il 27? C'è stato lui lì, ha fatto il bastardo un po' con tutti a quanto ho capito, e poi è scomparso nel nulla, per fortuna. Perché questo qui non me lo ricordo? Io ricordo Franco Bianco come nominativo, anche a me mi aveva detto cose che non capivo cosa diceva, ma sarà lei, oggi a me, che non c'entravo di una cosa, ma poi io, sai, rimango un po' sbigottito, non mi viene nemmeno da rispondere, ho detto, ma forse si è sbagliato di persona, capito, vabbè, niente di che, è stata una meteora nella 27. Vabbè, ha fatto cucù e basta. E poi in passato anche, guarda che anche con me avevano tentato di una mezza truffami, cioè ti spiego, se non stai uscendo adesso mi già per il cane. No, vai, tranquillo. Allora io ero piccolo, io ero boh 14 anni, no, non so, piccolo, e questa persona mi ha venduto un apparato pagato e l'apparato è diventato mio. Poi una specie di parente di questa persona che stava crepando perché lui non doveva venderlo a lui non aveva mai soldi, allora l'ha venduto a me. Questo me ne viene una sera sotto casa, sappi che quell'apparato è mio, l'aveva promesso a me, io qua c'ho la carta bollata, se quell'apparato non gli restituisci i soldi a lui, io vado dai carabinieri, da chi, a dire che quell'apparato è mio, è stato rubato. C'è gente fuori di testa, civili sassari, capito? Siccome ero piccolo credeva di intimorirmi, allora l'ho raccontato al parente che me l'ha venduto, dice lascialo stare che quello è mezzo pazzo, mezzo scemo, mandalo al diavolo e se continua lo denunci tu per estorsione. È già geloso, vai, praticamente. Vabbè, io adesso vado a prepararmi, vi saluto, vai Luca, io fra un po' all'orto passo, vai, ciao. E ciao Gianni, ci sentiamo quando capita, dai. Ciao Luca, se sei ancora all'ascolto, io stacco, dai, per oggi mi sono anche accaldato a parlare alla fine.